Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Quella di oggi è veramente una puntata del cuore. Noi oggi parliamo di un uomo straordinario che io ho avuto il piacere di conoscere. Parliamo di un grande musicista, di un cantante unico e che ha lasciato veramente un segno nella storia della musica italiana. Parliamo del cantore di una terra che è la Sardegna. Noi un po' di tempo fa abbiamo fatto una puntata bellissima su Maria Carta. Ecco, siamo in quell'ordine di idee, siamo a parlare di una persona che ha diffuso un linguaggio e lo ha reso moderno e fruibile. Ne parliamo oggi anche perché oggi sono 10 anni dalla sua scomparsa. La puntata di oggi è la puntata di Andrea Parodi. E tra i tanti che ci hanno chiesto di parlare di Andrea Parodi abbiamo scelto una ragazza che si chiama Aurora, Aurora Fosson. Buongiorno Aurora. Buongiorno Enrico, grazie, che emozione. Senti, cosa ti interessa di Andrea Parodi? Come vuoi che facciamo questa puntata? Bella, stupenda, perché se la merita, sì. Perché lui è troppo dolce e niente, io appunto avevo proposto questa puntata perché penso che Andrea meriti di essere ricordata, insomma. Certo. Senti, tu non sei sarda? No. Fossoni, però come dire, c'è un filo che lega la musica, l'Italia alla Sardegna, vero? Sì, sicuro, sì. Aurora, niente. Ti ringraziamo della segnalazione e certo. Speriamo che la puntata ti piaccia. Buon ascolto. Sicuro, grazie dell'opportunità. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Uno spessore artistico e umano, veramente difficili da trovare. C'è qualcosa che lega Maria Carta a Andrea Parodi, qualcosa del loro essere sardi, forse la lingua, perché ricordiamo il sardo non è un dialetto ma è una vera e propria lingua, forse una attitudine a affondare le radici in un tempo lontano, eppure a essere così attuali. Ascoltiamo Andrea Parodi cosa aveva detto a proposito del fatto di essere sardo. Non lo so, io credo che la Sardegna, dal momento che ho fatto una scelta di cantare in sardo, me la porto dietro in qualsiasi momento, quindi non so quanto spazio posso occupare, ma sicuramente la Sardegna è la fonte principale del mio esistere, perché ho costruito la mia vita, il mio lavoro sulla fortuna di essere sardo, di poter portare, oltre alla voce che è bella più o meno, con il fatto della Sardegna sicuramente una caratteristica che mi rende unico, quindi la Sardegna ci ho scommesso la mia vita. Eh sì, ha scommesso la sua vita e l'ha vinta quella scommessa, perché la sua grandezza è indiscutibile e lo sono state anche le sue scelte, che una scommessa vinta, anche se non sono state scelte commerciali. Lui non ha mai seguito il successo facile. Andrea Parodi ha sempre praticamente cantato in sardo, però ha portato la lingua sarda anche al grande pubblico, anche a quello televisivo, anche a quello di Sanremo, e poi ha duettato con grandi interpreti di paesi di lingue diverse, ha fatto tournée all'estero, insomma tutti capivano comunque il linguaggio universale della musica, perché la musica è il linguaggio universale dei grandi sentimenti. Andrea Parodi nasce il 18 luglio 1955 a Porto Torres, in Sardegna. La madre è sarda, il padre è di Savona, e forse il fatto di essere mezzo sardo e mezzo ligure ha un ruolo importante nella sua vita. Lui lo dirà spesso, essendo un ponte tra Liguria e Sardegna, per lui il mare è un luogo di felicità, un luogo familiare, un luogo che collega e non divide. E infatti col mare avrà parecchio a che fare, perché studia all'Istituto Tecnico Nautico della sua città, Porto Torres, e si diploma capitano di lungo corso. Ma non è solo questo, è un appassionato pescatore, è un bravissimo sub, realizzerà diversi documentari sul mare, sulle bellezze naturali della sua terra, insomma una personalità poliedrica, un uomo molto curioso. Indubbiamente la musica è la sua prima passione, anche perché è nato con una dote naturale straordinaria, ha una voce meravigliosa, una voce angelica, però anche evocativa, è un timbro che rimanda a sonorità lontane in un altalenarsi di suoni antichi e moderni. Ed è inevitabile che con una voce così lui arrivi subito alla musica. Nel 78 nasce un gruppo che si chiama Sole Nero, una formazione composta da 8 membri, amici, oltre Andrea Parodi ci sono i due fratelli Andrea Antonio Podighe che sono cantanti, poi Nando Esposito al basso, Giampaolo Concheda alla batteria, Pietro Fara al pianoforte, Gigi Camedda alle tastiere, Gino Marielli alla chitarra. Li nomino tutti perché sono tutti personaggi che in qualche modo hanno fatto molto per la musica sarda, dal rock al folk. Sole Nero ha molto successo all'inizio, è un gruppo folk che però vince in area RCA, che era insomma in quegli anni l'etichetta discografica più coraggiosa e più potente, vincono un concorso nazionale che si chiama 100 città nel 79 e vengono subito notati da un signore molto importante, si chiama Giulio Rapetti, in realtà Mogol, quel Mogol. E Mogol fa sul serio, intanto cambia nome, Sole Nero non va bene, li ribattezza Coro degli Angeli. E poi li dirige nell'incisione del primo album che si intitola Canzoni di Mogol e Battisti. Però intanto Sole Nero avevano accompagnato Gianni Morandi ed è la prima volta che io li ho visti dal vivo, era il 1980, Morandi stava ricostruendo un po' la sua carriera e loro gli furono molto preziosi. Il falco e il gabbiano. Lo dicevamo prima, a interessarsi ai Sole Nero non c'è solo Mogol, c'è Morandi, insomma, che capisce, ma Morandi è uno che dopo 2 secondi capisce subito se chi ha davanti è qualcuno che vale o no, e lui rimane fulminato da questa band che in qualche modo dà a Morandi una patina quasi di piacevole cultura alle canzoni, perché ricordiamoci che nell'80 Morandi faceva degli spettacoli basati quasi interamente sulle canzoni del primo periodo suo, e quindi in qualche modo io mi ricordo rimasi colpito da quanto questi ragazzi nobilitavano le canzoni di Morandi, e lui duetta spesso con Andrea Parodi come in questo caso. Sentite come Scende la pioggia diventa una canzone così particolare grazie ai controcanti dei Sole Nero, poi Coro degli Angeli con Andrea Parodi che ha una parte molto importante. E questa tournée di Morandi gira il mondo, vanno in Asia, negli Stati Uniti, in Canada, in Russia, in Svizzera, in Ucraina, vanno al Madison Square Garden di New York, loro si fanno sempre notare. Nell'83 vengono definiti il miglior gruppo vocale di Europa. Poi iniziano un po' di problemi, come spesso accade nei gruppi. Nell'83 i fratelli Podighe lasciano il gruppo, incidono un disco in sardo, Mysterious, uno in inglese, Shanghai, ma nell'87 c'è un'ulteriore scissione. Andrea Parodi, Gigi Camedda e Gino Marielli lasciano il Coro degli Angeli e fondano un nuovo gruppo destinato a raggiungere un successo straordinario. Il nome di questo gruppo è Tazenda. Per chi non lo sapesse, il nome Tazenda non ha un'origine sarda come qualcuno potrebbe pensare, deriva dal romanzo di fantascienza Seconda Fondazione di Isaac Asimov, è il nome di un pianeta derivato dalla locuzione inglese Stars End, cioè al termine delle stelle. Il primo album si intitola semplicemente Tazenda, è dell'88 e definisce subito le caratteristiche tipiche del trio. I Tazenda cantano in logudorese, che è la lingua sarda del Logudoro, la regione settentrionale dell'isola, e loro hanno una formula che si rivela vincente: suoni moderni, tastiere, chitarra elettrica, però che si amalgamano con i tipici suoni sardi, le lunedas, le fisarmoniche diatoniche, tutto questo con sopra a tutti le armonie vocali e la voce potente di Andrea Parodi, e anche gli altri cantano bene. Questo primo album viene presentato nel 90, c'è una trasmissione di Rai 1 che si chiama Gran Premio, condotta da Pippo Baudo, una specie di contest Canoro tra 12 squadre provenienti da regioni italiane diverse. Entra in campo adesso il gruppo dei Tazenda con la canzone di ispirazione sarda intitolata Carrassecare, che significa carnevale. I Tazenda. Azienda ovviamente stravincono e l'anno dopo arriva un'altra svolta, un altro colpo d'ala. Nel 91 il gruppo compone una canzone molto bella, si chiama Disamparados, che vuol dire abbandonati, è una canzone in logudorese, però c'è un artista a cui noi abbiamo già dedicato una puntata, che è il grande Pierangelo Bertoli, che sente questa canzone e vuole scrivere un testo in italiano che abbina al testo sardo, ne viene fuori un capolavoro e Bertoli porta i Tazenda a Sanremo, dando vita a una collaborazione che sarà destinata a entrare nella storia della canzone italiana. Loro non vincono quell'anno a Sanremo, ma insomma l'abbiamo già fatto il discorso, quasi sempre a Sanremo i veri vincitori sono diversi da quelli che salgono sul podio, arrivano quinti, ma al termine della loro esecuzione il pubblico, che allora era ancora molto ingessato, incurante dell'etichetta, tributa a Bertoli e ai Tazenda un'ovazione incredibile, li fa tornare sul palco, non permette ai presentatori di procedere con l'esibizione successiva. Ne abbiamo già parlato nella puntata su Pierangelo Bertoli. La canzone in questione, lo sapete, è Spunta la luna dal monte. Tra volti di pietra, tra strade di fango, cercando la luna, cercando. Beh, e ci sono canzoni belle, canzoni bellissime, poi ogni tanto ci sono i miracoli. Questo è un miracolo perché si fondono due generi, due storie, due personaggi così diversi in una canzone straordinaria, irripetibile. E loro diventano popolarissimi grazie a questa partecipazione. Parodi buca il video perché ha una figura unica, è un volto che sembra intagliato nel legno, magrissimo, alto, i capelli lunghi raccolti in una coda, un'eleganza particolare. Colpisce molto il pubblico, colpisce molto anche una ragazza, Valentina Casalena, che inizia a interessarsi a lui e poi diventa sua moglie. Io ho visto Andrea per la prima volta al Festival di Sanremo, dopodiché insomma sono diventata una sua fan, ho attivato, allora non c'erano le mail, non c'era Facebook, no, non c'era nulla di tutto questo, ma c'erano i contatti epistolari, quindi ho attivato una serie di contatti con fan di tutta la Sardegna e dopo insomma ho iniziato a seguirli un po' nei concerti ad Ascoli, al Festival Bar, lì ci siamo conosciuti, mi ha fatto un autografo, io in cambio gli ho dato una rosa. Ma ero anche molto giovane, ero, insomma, avevo 17 anni, ero piccolina. Dopo un paio d'anni abbiamo iniziato a frequentarci. Il falco e il gabbiano. È stato definito la voce per eccellenza, per il timbro angelico, per le capacità tecniche, quelle interpretative, per il carisma. Il nostro protagonista di oggi è Andrea Parodi, il cantore della sua amata Sardegna, che ha celebrato per tutta la sua esistenza, prima nel gruppo Sole Nero, poi nel Coro degli Angeli, per poi fondare i mitici Tazenda e poi approdare a una carriera solista. Lui è la voce di un intero popolo, un popolo fiero, silenzioso, un po' misterioso. Attraverso le sue interpretazioni, la lingua sarda, le sonorità così particolari di questo idioma sono giunte fino al grande pubblico, che l'ha sempre amato moltissimo. Nel nostro racconto siamo arrivati alla storica esibizione di Parodi con i Tazenda al Festival di Sanremo del 91, quando con il grande Pierangelo Bertoli portano sul palco Spunta la luna dal monte. Nell'estate successiva, nell'estate 91, partecipano al Cantagiro, vincono, si esibiscono in abbinamento con Paola Turci. Ascoltiamo l'audio originale della premiazione. Vincitori assoluti del Cantagiro, Paola Turci e i Tazenda. Allora, credo che questa sera in Sardegna ci sarà una festa pazzesca. E poi domani quando tornate a casa? Domani abbiamo un concerto in Sardegna e sarà sicuramente lì che ci renderemo conto se hanno veramente più fame. Devo dire che non riescono più a parlare, cioè Andrea è emozionatissimo. Paola? Beh, io vorrei dire una cosa soltanto, che ha vinto sicuramente la musica italiana, ma la musica italiana più pura, cioè dei ragazzi che cantano in sardo, poi appunto dei ragazzi giovani, dei ragazzi che cantano da 15 anni insieme però. Sì. E anche il 92 è un anno importante per i Tazenda. Tornano a Sanremo con una canzone sempre in logudorese, molto bella, si chiamava Pizzinno senza guerra, Bambini in guerra. È un brano che ha un autore, tra gli altri, che è uno che ha scoperto e riscoperto e amato la Sardegna quanto i sardi, perché assieme ai tre Tazenda il pezzo è firmato anche da Fabrizio De André. Poi una serie di album importanti, Limba del 92, Popolo Rock del 93, Forza Paris del 95, Il Sole di Tazenda del 97, e poi c'è una decisione importante da parte di Andrea Parodi, perché decide di intraprendere una carriera da solista. Ecco le motivazioni nella voce della moglie Valentina. Diciamo che ha sempre lottato con tutte le sue forze, anche lasciando i Tazenda. Erano ragioni semplicemente artistiche, lui non si sentiva più dentro quel tipo di progetto, sì, voleva fare altro che probabilmente in quel momento non era condiviso da Gino e Gigi, per cui sentiva la forte esigenza, la forte... Andrea lo sentiva, Andrea era altamente convinto di questo, per cui ha lasciato la strada dei Tazenda, ha intrapreso questo percorso solistico. E il primo album da solista si chiama Abacada, che in sardo logudorese significa alba. È un disco certo non fatto per assecondare il mercato, è un disco ricco di sonorità particolari, sperimentazioni, collabora con grandi artisti come Noah, collabora con Aldi Meola, col quale realizza un album dal vivo, Midsummer Night in Sardinia, un tour europeo molto bello. Insomma, Andrea Parodi anche in questo caso compie un lavoro incredibile, non solo come cantante ma anche come linguista. Traduce in sardo un brano famosissimo, lui lo intitola Deo Tigheria Maria, ma è un brano che aveva già una sua storia. Quando torna in domo tue, in saccara de Madonna. E beh, già The Sound of Silence era un capolavoro di suo, e qui diventa veramente una cosa particolare, bellissima. Andrea prosegue la sua carriera, fa dischi, concerti, ogni tanto si riunisce con i suoi compagni, con i Tazenda, per dei bellissimi concerti, con un album dal vivo che li testimonia, l'album che si chiama Reunion. E poi però accade quello che non dovrebbe mai accadere: nel 2004 gli viene diagnosticato un tumore allo stomaco molto aggressivo. Lui cerca di combatterlo con tutte le sue forze, anche perché oltre ad avere molti progetti, come per esempio una tournée con Michael Bublé, lui ha avuto una bellissima bambina, Antea, e la moglie in attesa di un'altra figlia che si chiamerà Lara. Però la malattia sembra proprio più forte di lui, e arriviamo al 22 settembre del 2006, è il suo ultimo concerto all'Anfiteatro Romano di Cagliari. Lui non è più lo stesso, i segni della malattia sono evidenti, devastanti, eppure lui canta, e canta forse il suo capolavoro interpretativo. È una canzone struggente che abbiamo già sentito anche da Maria Carta, e la canzone Non posso riposare. E finisco con Non posso riposare, e tutti quanti andando. Non posso riposare. E sempre in quella stessa struggente serata Andrea Parodi canta una bellissima canzone che è uno straordinario inno alla vita, e lui la introduce così. Questa canzone si intitola Gracias a la vida, grazie alla vita, ed è di Violetta Parra. Lei, dopo aver scritto questa canzone bellissima, purtroppo si è suicidata. Io ho tutt'altri pensieri per la testa. Però le parole sono bellissime. Grazie alla vita che mi ha dato questa voce per poter comunicare con tanta gente che non conosco ma che diventano amici. Grazie a tutti, a quelli che hanno creduto in me e mi hanno dato la possibilità di fare una vita fortunata, io dico sempre. perché non c'è niente più bello che uscire di casa e avere tutto quello che ti serve per campare addosso. Io ho la mia voce e quindi strafortunato in questo senso. Gracias a la vita che mi ha dato tanto, me dio dolosteros, che quando lo sapro perfetto distingo lo negro dal blanco. E lo sentite cantare in questa maniera divina, eppure pochi giorni dopo, il 17 ottobre 2006, Andrea Parodi muore, però la sua arte continua e continuerà a riempire i silenzi della sua amata Sardegna. E noi abbiamo il piacere di fare due chiacchiere col figlio maggiore di Andrea Parodi, Luca Parodi. Buongiorno Luca. Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora tu, intanto in qualche modo tu dirigi una fondazione che si chiama Andrea Parodi, tanto per cominciare. Esatto, sì. Che tipo di fondazione è? Al di là del fatto di ricordare, qualora ce ne fosse bisogno, la figura di Andrea, di tuo papà. Ma appunto è una fondazione no profit che nasce proprio per eseguire tutte quelle azioni che noi puntualmente ogni anno compiamo per ricordarlo, preservare tutta quella che è stata la sua opera artistica e cercare per quanto ci è possibile di continuare a divulgarla, insomma. Beh, questo non vi sarà difficile, perché non è difficile anche in tempi così leggeri e superficiali come questo portare il ricordo di una voce e di una persona come Andrea Parodi. Dammi un ricordo da figlio, un ricordo di tuo padre personale, diciamo. Noi oggi ne abbiamo parlato di tante cose, insomma, soprattutto artistico, ovviamente. Ma allora io principalmente credo di aver avuto la fortuna di aver avuto un grande amico, oltre che un padre. Ci siamo un pochino persi in una fase delle nostre vite che, guarda caso, questa è stata quella di massimo successo, no? Forse le due cose sono anche strettamente legate, certo. proprio per questo. Però ci siamo poi riscoperti quando io sono diventato un po' più grande, e devo dire che sono stati degli anni meravigliosi dove abbiamo recuperato con gli interessi tutto ciò che si era aperto, e credo appunto di aver avuto la fortuna di potermi rapportare veramente senza nessun tabù e senza nessuna inibizione con lui, cosa che tante volte invece tra padre e figlio non succede, perché ci sono delle inibizioni, che viene un po' più difficile tirare fuori, insomma. Senti, tu oggi sei curiosamente il manager dei Tazenda, quindi in qualche modo anche lì, insomma, come dire, il peso di tuo padre. I Tazenda continuano a essere una grande band, hanno un cantante che cito e saluto che si chiama Nicola Nite, che è un bravissimo cantante, però insomma immagino che il macigno difficile da portare sia quello di essere la band di Andrea Parodi. Assolutamente, infatti non finirò mai di complimentarmi con Nicola, perché io so quanto non sia semplice ricoprire questo ruolo, e lui lo fa egregiamente. Credo che abbia riaperto una pagina bellissima dei Tazenda, che comunque hanno avuto tante evoluzioni nella loro carriera, e credo che si stia riuscendo anche a portare avanti molto bene tutta quella che invece è la storia pregressa, che comunque non è una cosa esattamente scontata, insomma. Certo, no. Senti, ma e quindi, come dire, l'eredità di Andrea era intanto la grande vocalità. Volevo aggiungere il fatto che in Sardegna non si sa perché, ma sono tutti intonati. Io mi accorgo quando vengo a fare i concerti in Sardegna, quando canta il pubblico, sono tutti intonati. Cioè, cos'è, l'acqua, la collocazione geografica? Ma dipenderà dal fatto che siamo una delle terre più antiche, quindi calchiamo, per quanto su un'isola, una terra molto stabile, che quindi ci fa mantenere un grande senso del tempo, probabilmente. A parte questo, il popolo sardo è un popolo molto canterino, quindi credo che più di altri forse ce l'abbia proprio nel sangue, insomma. Abbiamo una tradizione musicale e folcloristica che affonda le radici veramente in un passato molto, molto remoto, quindi credo che questo faccia ormai parte dei nostri geni, insomma. È vero. E allora, Luca, porta il mio abbraccio alla Sardegna, complimenti per il tuo lavoro, per la fondazione, e un abbraccio a tutti voi, t'azienda compresi. Grazie, grazie. Mi Luca. Restituisco l'abbraccio e invece ringrazio tanto te per aver concesso questa puntata al nome di papà e per ricordare tutte queste belle cose. È stato un piacere parlare di tuo padre. Ciao Luca. Grazie, un grande abbraccio. Ciao, ciao. Ciao. Ci sono tante storie da raccontare, che ancora racconteremo, storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, che hanno volato in alto, che hanno fatto cose che hanno lasciato un segno, persone la cui anima è spesso sopravvissuta di gran lunga al loro corpo, e la loro voce ha lasciato qualcosa di scolpito nella storia di questo paese e dei nostri cuori. È il caso, per esempio, di Andrea Parodi. Ognuno di noi nella vita può cadere, ma può anche darlo, quel colpo d'ala che ti fa volare in alto come il falco, come il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalarci altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito, venite a cercarmi, a cercarci sui miei, sui nostri social, Facebook, Twitter, insomma sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.